Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, mentre ancora la legge di stabilità va avanti ma con moltissimi emendamenti e tra l'altro su quello continua a non esserci accordo, per essere buoni, sulla retroattività per quello che riguarda le franchigie, quindi le detrazioni e agevolazioni fiscali. Ma nemmeno a questo punto sulla tassa del 3% per i redditi sopra i 150.000 euro, per la parte che riguarda la parte sopra i 150.000 euro. Beh, anche qui il PDL non è d'accordo. Non è d'accordo nemmeno la Confindustria, che oggi ha detto insomma il contributo di solidarietà è iniquo e si aggiunge ad un prelievo analogo ancora in essere, va a colpire chi ha maggiore possibilità di spesa. Dicevo, mentre ancora la legge di stabilità è oggetto di numerosi emendamenti da parte soprattutto dei principali partiti che sostengono la coalizione di governo, il governo stesso, nel frattempo abbiamo nuove notizie che riguardano i giovani. Se ne parla tantissimo in questo paese di giovani, perché oggi la Coldiretti fa sapere che a un sondaggio pubblicato proprio in data odierna il 50% degli intervistati giovani sostiene che preferirebbe aprire un agriturismo piuttosto che andare a lavorare in banca, al di là dell'aspetto più faceto. In realtà questo è proprio un cambio di mentalità. Lo stesso sondaggio fatto 10-15 anni fa avrebbe visto una risposta diametralmente opposta tra lavorare in un agriturismo o comunque nel mondo agricolo oppure lavorare in banca. Parleremo di agricoltura anche perché però l'Italia rischia di perdere, questo è veramente inaccettabile, 500 milioni di fondi per l'agricoltura, 426 milioni per la precisione, che verranno persi in automatico se entro la fine dell'anno, lo ha scritto oggi il commissario all'agricoltura Dacian Ciolos, non le regioni che dovrebbero avere questi soldi non affronteranno e realizzeranno gli 8 programmi di sviluppo rurale. Le regioni che devono presentare questi programmi sono Liguria, Sardegna, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia e Molise, ma ancor di più Sicilia, Campania e Puglia. E qui torniamo sul tema di come l'Italia riesca a farsi del male da sola, non riuscendo a utilizzare i soldi che l'Unione Europea le mette a disposizione. La borsa intanto va a chiudere in negativo, meno 0,80% Milano, meno 0,20% Parigi, invariata in questo momento Londra e Francoforte più 0,40% con l'euro a quota 1,29,57. Ci occuperemo anche del rapporto che viene pubblicato ogni anno dal centro studi, dell'ufficio studi di Mediobanca, per quello che riguarda i bilanci dei grandi gruppi italiani. Eni, vi anticipo, resta la numero uno per fatturato. Sale Xor grazie a Chrysler, escono dalla top 10 le Poste italiane e chi guadagna più posizione è Prismian, cioè l'ex Pirelli Cavi. E però il rapporto Mediobanca fa anche notare che con la crisi i crediti di dubbia esigibilità, cioè quelli che rischiano poi di diventare sofferenze e non essere più esigibili, sono aumentati del 141%. Ora, non tutti questi crediti bancari non saranno poi esigibili, però entrano nella categoria della dubbia esigibilità e quindi già a rischio, dicevo, più 141% per un totale di 4 miliardi e 200 milioni di euro. 349-238-6666 per i vostri sms e rapidamente le altre notizie in breve. In Intanto i titoli: Salvatore Ferragamo più 2%, Azimut anch'esso più 2%, Luxottica più 1,60% come Atlantia, Tod's più 1,50%, Campari più 0,90% come Parmat e Fiat Industrial. Sul fronte opposto Unicredit perde il 3,40%, Telecom Italia il 3%, Saipem meno 2,90%, ST Microelectronics meno 2,2%, il 2% lo perde Fiat ma anche la Popolare Emilia Romagna, l'1,80% il calo di A2A e anche del Banco Popolare e di Mediaset, l'1,60% quello di Intesa San Paolo, l'1,30% il calo di Monte dei Paschi e Ubibank. Il petrolio è sempre, tra virgolette, debole, anche se oggi leggermente in rialzo. New York $86,20 al barile. Dall'America arrivano ordinativi di beni durevoli in rialzo del 9,9%, le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate di 23.000 unità. Però, e qui ci sta il però, i licenziamenti sono saliti ai massimi dal 2010. Dal 1 settembre le aziende statunitensi hanno infatti annunciato piani per tagliare 62.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e all'estero. È il taglio più grosso, ripeto, dall'inizio del 2010. Dall'inizio dell'anno le aziende americane hanno già tagliato 158.000 posti di lavoro contro i 130.000 tagliati nello stesso periodo, ma nel 2011. E alla luce anche di questo va letto forse il nuovo andamento dei sondaggi americani, nonostante le polemiche su stupro e aborto. Infatti Barack Obama continua a perdere l'appoggio determinante delle donne, il voto femminile era la parte debole di Romney, stando agli ultimi sondaggi sarebbero alla pari sul voto femminile. Pensate che Obama era partito in vantaggio di 16 punti rispetto a Romney, e invece il vantaggio si è ridotto, mentre complessivamente, stando all'ultimo sondaggio, Romney dovrebbe essere in testa di 2 punti col 47% delle preferenze tra i probabili elettori. Parleremo anche della Gran Bretagna, se ci stiamo dentro, perché è uscita dalla recessione grazie anche e soprattutto all'effetto Olimpiadi, ma insomma il PIL britannico nel terzo trimestre ha segnato una crescita dell'1% dopo un meno 0,4% nel secondo trimestre. E fa discutere quanto ha deciso il Parlamento europeo, che ha respinto la candidatura di Yves Mersch nel consiglio direttivo della Banca Centrale Europea con 325 no, 300 sì e 49 astenuti, e lo ha bocciata questa candidatura. Non è un voto vincolante perché il consiglio europeo non sta il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea non sta rispettando la direttiva europea sulla presenza delle quote rosa, e quindi non poteva chiedere che il posto venisse occupato da un uomo. Una buona notizia arriva dall'Euribor, il tasso interbancario di riferimento con cui poi si calcolano i mutui, perché è sceso a un nuovo minimo storico, lo 0,2% a 3 mesi. Non vediamo un calo analogo nei tassi praticati sui prestiti bancari, ma speriamo che si trasferisca presto anche al tasso praticato dalle banche a imprese e risparmiatori. E mentre in Grecia il ministro delle finanze Yannis Tournaras è stato ricoverato oggi in ospedale per un grave stato di esaurimento fisico e un'influenza, esaurimento fisico, perché insomma, fare il ministro delle finanze della Grecia in questo momento è un lavoro usurante, diciamolo così. In Italia lo spread italiano è tornato sopra i 320 punti, resta un livello sempre insomma, non pessimo, anche se ripeto vorremmo vederlo sotto i 300 punti, siamo a 323 oggi. E intanto appunto la Commissione Finanze però della Camera, dando parere favorevole alla legge di stabilità, ha chiesto che venisse cancellata la retroattività delle nuove norme sulle detrazioni e sulle deduzioni. E poi ha anche votato in maniera unanime la cancellazione del taglio di 600 milioni per la sanità nel 2013, che sarebbe da coprirsi a quel punto con tagli lineari ai ministeri. I problemi occupazionali si vedono anche in Italia. Le retribuzioni hanno frenato a settembre più 1,4% sull'anno, il che vuol dire che l'aumento delle retribuzioni non sta al passo con l'aumento dell'inflazione. L'inflazione infatti è al 3,2%. Nel frattempo a Pomigliano d'Arco vi sarà ancora cassa integrazione per gli oltre 2.000 lavoratori, si fermeranno gli stabilimenti dal 26 novembre al 9 dicembre prossimo. La Ford continua invece un'operazione di chiusura dei suoi stabilimenti, questa volta tocca la Gran Bretagna, dopo il Belgio di ieri, a Southampton, fino a 1.500 posti di lavoro tagliati. E visto che stiamo parlando di grandi gruppi, poco fa sono usciti anche i conti di Alitalia. L'utile nel terzo trimestre dell'anno va a 27 milioni di euro, i ricavi a 1 miliardo e 120 milioni. Ma cos'è questa crisi? Torna, cos'è questa crisi? Qualche notizia ce l'abbiamo su come questa crisi stia modificando le abitudini di vita degli italiani, di quasi tutti gli italiani. Oddio, qualcosa si nota anche nella parte che riguarda la politica e soprattutto per quello che riguarda i rimborsi elettorali. Comunque, 349-238-6666 per i vostri SMS. Ma cos'è questa crisi? La crisi. Allora, il disagio emotivo e i disturbi ansioso-depressivi sono in aumento, anche per colpa della crisi economica che accresce chiaramente le incertezze sul futuro. Lo dice Telefono Amico, che insomma è l'osservatorio più importante che c'è in questo paese sul disagio emotivo. Ha realizzato una ricerca con il Dipartimento di Scienze Statistiche della Cattolica di Milano. Allora, le chiamate a Telefono Amico Onlus nel corso del 2011 sono state 107.000, ossia il 7% in più rispetto agli anni precedenti. Il 41% delle persone che chiamano ha un lavoro e un terzo di questi lavora in proprio. In crescita anche gli episodi di depressione, che vanno dal 3,5% al 5,5%. Nel frattempo c'è un'altra notizia che diffonde la Coldiretti, che tra poco sarà nostro ospite, ma riguarda come cambia la dieta. Allora, la pasta è il piatto della crisi, ma non solo in Italia, dove già ne mangiamo tanta, ma anche all'estero. Pensate che le esportazioni di pasta sono cresciute del 7% in valore e avranno un nuovo record storico, e questa è una buona notizia per l'Italia, a fine anno 2 miliardi e 100 milioni di esportazioni. In Cina più 110%. Anche se i consumatori più appassionati di pasta italiana sono i tedeschi, seguiti dai francesi, dagli inglesi, dagli statunitensi e dai giapponesi. Salgono anche i consumi interni in Italia, e qui sì che c'è la crisi, più 4% i consumi di pasta. Nel frattempo soffrono i gruppi parlamentari, soffrono soprattutto gli onorevoli italiani che per via delle riduzioni dei rimborsi elettorali hanno difficoltà a pagare la quota dovuta al loro partito. Abbassare potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni potrebbe più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, più, auto blu, sangue blu, cieli blu. Eh sì, è disperazione negli onorevoli, perché il taglio dei rimborsi elettorali fa sì che ormai inizi difficile, sia difficile e inizi ad essere difficile per gli onorevoli pagare quella manciata di euro che dovrebbero versare ogni mese al Popolo della Libertà, per esempio. Il tesoriere del partito, Rocco Crimi, ha dovuto richiamare tutti all'ordine. Al 31 dicembre vanno pagati gli arretrati dovuti dai parlamentari, 800 euro, e dai consiglieri regionali, 500 euro. E sono così tanti gli arretrati che ammontano complessivamente a 4 milioni e 600 mila euro. E poi attenzione, perché la rinuncia alla tranche dei rimborsi elettorali di luglio è stata una brutta botta per i partiti. L'UDC quest'anno prevede, per, a causa del taglio dei contributi, una sopravvenienza passiva, cioè un passivo di 9 milioni e mezzo, che appunto che comprende anche 2 milioni e mezzo di una quota di questo credito ceduto a una banca nel corso dei precedenti esercizi. È interessante perché al 31 dicembre 2011 invece l'UDC denunciava un avanzo patrimoniale generato anche dagli utili degli anni precedenti di ben 18 milioni e mezzo e aveva 5 milioni e mezzo depositati in banca. E poi l'Italia dei Valori, che al 31 dicembre del 2011 aveva accumulato un avanzo patrimoniale superiore ai 35 milioni. E invece poi nel 2010 la sola lista della governatrice del Lazio, perché ci sono anche i consiglieri regionali, Renata Polverini, ha incassato 6 milioni di euro. Però l'applauso finale, prima di arrivare adesso al tema di cosa vogliono fare questi giovani, tema che a mio avviso, continuiamo a dirlo, va trattato con le pinze per non scivolare nei luoghi comuni o nei fraintendimenti come è successo al ministro Fornero, e vorrei fare l'elogio, la nostra medaglia oggi va al sindaco di Cervia, Ercole Massari del PD. Allora, lui si è dimesso ieri sera, ma che cosa aveva fatto? Aveva creato un insieme di falsi profili su Facebook, di falsi persone che si complimentavano per quanto era brava la giunta guidata dal sindaco, quanto era bravo il sindaco. In sostanza, utilizzando dei profili inventati, si faceva degli grandissimi autoelogi. Poi però alcune bizzarre forme di espressione hanno fatto sospettare che il profilo fosse proprio quello del sindaco, che entrava con altri nomi, ormai siamo arrivati anche a questi. E allora ha deciso di licenziare i suoi trolls, ha detto: tutti i miei numerosi cloni saranno posti in sonno. Speriamo non abbia anche altri cloni tra altri sindaci del paese. Un applauso, e parliamo poi del lavoro che vorrebbero fare i nostri giovani. Escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Bisogna entrare subito, se ti fanno entrare, e con questi tassi di disoccupazione non è facile. Giustissimo ragionamento, che uno deve essere flessibile. Bisogna però stare attenti a dire che i giovani non lo siano, bisogna avere gli elementi per dirlo, almeno qualche elemento statistico, qualche sondaggio, qualche risposta, se no si cade nello stereotipo dei giovani viziati, bamboccioni, chiusi. E allora uno viene a vederti le cose in casa, ti fa le pulci, si scopre che molti figli dei ministri, come abbiamo raccontato ieri, il problema di essere chiusi non ce l'hanno avuto, anzi sono sti chiusi, visto che hanno chosen il lavoro, lavori di alto profilo, no? Per esempio la CISL ha diffuso un sondaggio su 3.600 giovani tra i 18 e i 34 anni e solo il 20% sostiene che può aspettare a trovare un lavoro perché vuole un lavoro che rispecchi le sue aspirazioni. Il 71% dice di essere disponibile a fare qualsiasi lavoro, anche se non interessante, purché pagato. E oggi la Coldiretti con l'Istituto SVG ha pubblicato un sondaggio in cui, fatto con anche qui giovani tra i 18 e i 34 anni, in cui scopriamo che lavorare in banca non è più un obiettivo, e verrebbe voglia di dire, conforzando un po' il titolo, i giovani tornano alla terra. Presidente Sergio Marini, presidente della Coldiretti, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Beh, voi dovreste essere contenti, poi parliamo invece dei fondi rurali. Avete pubblicato un sondaggio oggi, sì, in cui quanti sono i giovani tra i 18 e i 34 anni che preferirebbero aprire un agriturismo che lavorare in banca? Sono più della metà, pertanto è un'attività che piacerebbe, poi naturalmente non tutti riescono a farlo e possono farlo, però evidentemente c'è una rivalutazione dell'agricoltura nella sua forma più moderna, l'agricoltura multifunzionale, quella che ha rapporto diretto con il consumatore, eccetera. Poi dopo, qui tra il volere e il potere, naturalmente c'è un bel distinguo, c'è anche il fatto che forse in banca è difficile trovarlo il posto e anche mantenerselo magari, ecco. Sì, non è l'ultimo in realtà sondaggio che vediamo in cui voi come mondo dell'agricoltura registrate un ritorno, non solo in Italia devo dire, anche all'estero, in Europa, certo, un ritorno alla terra, ma al di là, diciamo, delle battute facili, è chiaramente un ritorno non solo per disperazione ma anche per una rivalutazione di un insieme di valori, forse. Sì, sì, decisamente è così. Innanzitutto ci sono dei dati che dicono che anche quest'anno i nostri giovani in agricoltura sono aumentati del 4%, che è un dato in controtendenza e è molto significativo. Poi è evidente che non c'è solo una motivazione di reddito, perché là evidentemente, come tutti sanno, il rapporto tra investimenti e reddito è veramente basso, si investe molto e si guadagna ancora abbastanza poco, però a mio giudizio c'è invece una visione di prospettiva, si pensa che il cibo, l'agricoltura, voglio dire, possa essere una delle attività su cui il paese può puntare in futuro e su quale si creerà sviluppo e crescita. Peraltro il nostro cibo è tra i più apprezzati al mondo, qualcosa significherà, lì c'è veramente dello spazio da poter conquistare. Aggiungo anche che secondo me, ma non soltanto secondo me, c'è una riscoperta anche appunto della qualità della vita, insomma della possibilità di esprimere la propria fantasia, la creatività, che in agricoltura veramente si esprime al massimo. Pertanto è una valutazione complessiva, non si deve fermare naturalmente solo all'aspetto economico, altrimenti non si spiegherebbe, ma al recupero appunto di valori forti, che sono quelli anche del legame identitario. Sì, ma poi Marini, al di là dei sondaggi, però poi voi le vedete queste cose nella campagna? No, cioè i vostri associati giovani, vostri della Confagricoltura, cioè, stanno aumentando, oppure al di là di qualche fenomeno che poi finisce sui giornali, nelle pagine di Società e Costume, le chiacchiere stanno a zero? No, io le ho dato un dato statistico, proprio perché poi la questione non è solo qualitativa ma è anche quantitativa. Allora, in agricoltura l'età media è abbastanza avanzata, alta, ma semplicemente perché non si va mai in pensione in agricoltura, nel senso che sostanzialmente l'imprenditore lavora sino quasi alla fine dei suoi giorni, per cui il ricambio generazionale avviene molto tardi. Detto questo, però, è un ricambio generazionale pieno, nel senso che i giovani sono circa il 4-5% e tale dato è fermo da diversi anni, e quest'anno c'è stato un leggero aumento. Pertanto, a differenza di altri settori dove l'invecchiamento, voglio dire, sì, continua, qui invece c'è una fase regressiva, il che è significativo sotto il punto di vista quantitativo, e chiaramente è una lettura di un fenomeno che secondo me è un segnale di speranza rispetto al futuro. Assolutamente, no, anche perché in altri mondi, mondo anglosassone, negli Stati Uniti, ma non solo, fare l'agricoltore ha un'accezione completamente diversa da noi, cioè, c'è ancora quella bruttissima espressione braccia rubate all'agricoltura, no, perché ci vuole testa per fare l'agricoltore, e sei un imprenditore. Noi veniamo chiaramente da un percorso storico di ex paese contadino, quindi c'è ancora questa memoria negativa, perché era brutto quel lavoro lì da Mezzadria. Il lavoro che rimaneva, naturalmente. Esatto. Però adesso noi notiamo come fenomeno sociale una riscoperta di chi, ma non in maniera snob o fighetta, lo dico molto tranquillamente, ma proprio come atto di serietà, va a fare l'imprenditore agricolo, perché sarebbe bene chiamarli così, sono imprenditori agricoli. Senta, a questo proposito però, Marini, dopo il metodo, io vorrei capire, non è colpa vostra, per carità, ma com'è possibile che l'Italia da qua a fine anno, cioè due mesi e qualcosina, rischi di perdere 500 milioni di fondi europei, 500 milioni con queste vacche magre, visto che parliamo di agricoltura, no, non è poco, per 8 regioni italiane che non riescono a presentare 8 programmi di sviluppo rurale. E oggi il commissario all'agricoltura Dacian Ciolos ha scritto una lettera al ministro delle politiche agricole, Mario Cattania, ha detto: guardate che in automatico o arrivano gli 8 programmi di sviluppo rurale, o questi soldi li perdete, con la conseguenza che andranno verso altri agricoltori, altre aree di sviluppo rurale, in particolare Liguria, Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Molise, ma soprattutto Sicilia, Campania e Puglia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo la parte relativa al mondo dell'agricoltura con il presidente della Coldiretti Marini, che appunto ha diffuso questa indagine sul 50% dei giovani che preferirebbero lavorare e aprire un agriturismo piuttosto che lavorare in banca. Ma adesso vorrei arrivare anche ai fondi rurali. Un paio di risposte velocissime al 349-238-6666. No, nessuno vuole dare un'immagine buonista, bucolica, che sia tutto facile. Abbiamo solo notato come nei flussi occupazionali, dopo decenni in cui i flussi verso la campagna erano negativi, c'è stato un leggero incremento. E ripeto, non è una tendenza solo italiana, anzi è soprattutto una tendenza che vediamo nel mondo anglosassone, Stati Uniti, Australia, ma non solo, e anche in Francia, per quello che riguarda la parte più latina del continente. C'è chi lamenta, ha ragione, che con un fatturato di 42.000 euro, fatto è un agricoltore, ne paga 20.000 tra tasse varie, e dice passa la voglia di lavorare. Ha ragione, devo dire che la pressione fiscale è elevata nel mondo agricolo, ma anche e soprattutto anche in altre attività produttive. I piani di sviluppo rurale ci sono da tempo, adesso ci arriviamo. Dunque, Marini, 426 milioni di euro che le regioni Liguria, Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise e ancora di più Sicilia, Campania e Puglia rischiano di perdere. Come mai non arrivano questi piani di sviluppo rurale? La risposta è nella domanda. Lei ha elencato una serie di regioni ed altre no, per cui non è legato alla capacità degli imprenditori di spendere, è legato alla capacità delle regioni di semplificare, di ridurre la burocrazia e fare in tempo che i soldi di cui parliamo sono soldi del secondo pilastro della politica agricola comunitaria, vale a dire sono i soldi per gli investimenti, per cui soldi importanti, però se poi i meccanismi sono così complessi e si arriva sempre a ridosso delle scadenze, è evidente che diventa difficile adoperarli. La cosa peggiore è che poi quando si arriva a ridosso del disimpegno, vale a dire del momento in cui bisogna restituirli, si inventano delle misure semplici in maniera tale che i soldi si spendono velocemente, pertanto c'è sicuramente efficienza di spesa, perché alla fine forse il disimpegno non ci sarà, però l'efficacia è quasi zero, perché sono soldi che potevamo utilizzare molto meglio. Ma il problema è quasi tutto legato alla burocrazia e alla inefficienza delle regioni in questo caso. Lei sta dicendo, siccome sono 8 regioni su 20 quelle che rischiano di perdere questi fondi, attenzione, perché il problema non è della burocrazia europea verso questi fondi, ma è della inefficienza della macchina burocratica di queste regioni. Assolutamente. assolutamente, assolutamente, ecco. Perché la burocrazia europea è uguale per tutti, e è molta, io non dico che è poca, però è uguale per tutti. Ci sono regioni che si attrezzano in tempo e che riescono a spendere tutto, anche di più potrebbero spendere, e regioni che invece non lo fanno, purtroppo in alcuni casi sono quelle del sud, lei le ha citate, e dove il meccanismo della burocrazia è così complesso e per cui si arriva a questi paradossi. Non abbiamo soldi, però sostanzialmente quei soldi europei, che poi sono sempre soldi italiani, perché l'Italia chiaramente li rimandiamo indietro. No, non li rimandiamo indietro, ancora peggio, li diamo ad altre aree che fanno concorrenza all'Italia, li diamo agli spagnoli, ai portoghesi, ai greci e quant'altro, e ai francesi. Senta Marini, però mi viene un sospetto per chiudere, perché lei ha detto una cosa molto importante. Cosa succede in questi casi? Quando arrivi con l'acqua alla gola, ti manca un mese per presentare questo progetto, se no perdi tutti questi soldi, che sono tanta roba, mezzo miliardo di euro. Si buttano giù in 448, adesso la faccio un po' semplice, dei progetti molto semplici, chiari, così, che però non servono a niente. Sì. Allora, domanda, se non a far girare tanti soldi, non è che, magari sono un po' malizioso, che si faccia apposta, cioè, che a quel punto, così, con l'acqua alla gola fai passare qualunque cosa, anche cose completamente inefficienti, in modo che riparte il magna magna, i soldi agli amici, cioè... Non è possibile che la regione Sicilia, con 18.000 dipendenti, di cui 1.600 dirigenti, non ne trovi una decina in grado di scrivere un progetto per prendersi i soldi europei, no? Io le vorrei rispondere di no, vorrei augurarmi che non sia così. Però a questo punto non posso escludere nulla, perché alla fine si arriva a delle operazioni in cui i soldi vengono sostanzialmente spalmati senza minimamente valutare l'efficacia, voglio dire, poi di quella spesa, e pertanto è possibile che passino anche delle operazioni che, avendo avuto più tempo e più, voglio dire, senso della costruzione. È la logica dell'emergenza, no? Si usa anche per i lavori pubblici delle volte. Arrivi così in ritardo che a quel punto, per non far saltare tutto, devi fare delle deroghe eccezionali che poi hanno la caratteristica di saltare magari alcuni controlli. Si vende per processo virtuoso, un esatto, processo molto vizioso. Siamo con l'acqua alla gola, così poi saltano i controlli, salta tutto, la gara al primo offerente. In realtà è un modo molto comodo per dire: siamo in emergenza, non possiamo rispettare, non potete chiederci di più, dovevate non arrivare in emergenza, è la mia risposta. Grazie a Sergio Marini, presidente della Coldiretti. Dopo il traffico parliamo di borsa, ma soprattutto in primo luogo delle aziende a maggiore capitalizzazione di questo paese. Passiamo dall'agricoltura all'industria manifatturiera in senso lato. È uscita infatti la classifica, come ogni anno, di Mediobanca sui bilanci dei grandi gruppi italiani, e al di là di Eni, che resta la prima, la seconda diventa Exor, la terza è invece Enel, che scende al terzo posto. Il tempo scorre in avanti, ma il reddito delle famiglie italiane si muove all'indietro. Nel 2010 una famiglia italiana guadagnava in media 2.726 euro netti al mese, ossia, al netto dell'inflazione, il 2,4% in meno rispetto a quanto riusciva a fare nel 1991. Dietro la media si celano però importanti differenze. Il cosiddetto reddito equivalente, calcolato tenendo conto delle variazioni nella struttura dei nuclei familiari intercorsi in questi 20 anni, mostra come il reddito reale dei lavoratori dipendenti sia cresciuto soltanto del 3,3%, a fronte di un incremento del 15,7% per i lavoratori autonomi e dell'11% per i pensionati. Una dinamica che risulta però invertita se si analizza solo il biennio 2008-2010, un anno che ha visto una discesa dei guadagni di autonomi e pensionati più marcata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Le famiglie italiane, aggiunge Banca Italia, possono contare su un tesoretto che vale in media quasi 164.000 euro, ricomprendendo in questa cifra abitazione e attività finanziarie. Cresce la quota di ricchezza in mano al 10% della popolazione più ricca, che passa dal 44,3% del 2008 a quasi il 46% del 2010. All'altro capo della scala del benessere aumenta la quota di individui poveri, passata dal 13,4% al 14,4%. Fuori da queste due cerchie relativamente ristrette, la distribuzione della ricchezza appare sostanzialmente invariata. Il 27,7% delle famiglie ha un debito dell'ammontare medio di 43.000 euro, rappresentati nella maggior parte dei casi dal mutuo per l'acquisto dell'abitazione. Stabile infine la quota, poco più di 1 su 10, degli individui che pagano una rata per il rimborso dei prestiti superiore al 30% del loro reddito, trovandosi così in una situazione definita di vulnerabilità finanziaria. E allora c'è un po' tutto in questo rapporto. Mi ricollego alla coda, è importante che sia solo una su 10, perché vuol dire che l'Italia, tutto sommato, quanto a risparmio familiare, non è messa così male come altri paesi, Gran Bretagna e soprattutto Stati Uniti. Vuol dire che il mutuo contratto dagli italiani è un mutuo, tutto sommato, nel 90% dei casi, sostenibile, accettabile, al massimo il 30% del reddito. C'è anche il fatto che dal 2008 al 2010, con la crisi in atto, siano calati più i redditi dei lavoratori autonomi rispetto ai redditi del lavoro dipendente. E poi c'è quello che ha fatto arrabbiare molti autonomi, cioè che negli ultimi 20 anni il reddito reale del lavoratore autonomo è cresciuto di gran lunga, più 16% rispetto a quello del lavoro dipendente, più 3%. E anche, non male, le pensioni più 11%. Poi sappiamo tutti che dentro l'evasione ci sono anche i lavoratori dipendenti che fanno il doppio lavoro in nero, ma insomma, nessuno ha mai detto il contrario. Restiamo sul tema dei redditi, in questo caso però dichiarazione dei redditi, perché dalle 9 di questa mattina è scattata la 21esima edizione di Telefisco, è il convegno annuale del Sole 24 Ore con l'esperto risponde, numerosi esperti che rispondono alle vostre domande, 72 sedi, 12 principali e 60 collegate, e gli approfondimenti e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore, ma anche dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. E tra l'altro l'evento poteva essere seguito in streaming sul sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com/telefisco. E tra l'altro, nell'area dedicata ai convegni, i dottori commercialisti potranno ottenere 6 crediti formativi previo superamento della prova di validazione, che ci mancherebbe. Allora, Befera, Attilio Befera, croce e delizia, forse più croce, ossia il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, intervenendo a Telefisco, ha detto: attenzione, per tanti anni la lotta all'evasione non è stata centrale, e se l'Italia è arrivata sull'orlo del baratro, ciò è dipeso anche dai 120 miliardi di evasione annuale, 120 miliardi, è la piaga che condiziona la vita dell'Italia. Ascoltiamo la microfono della nostra Anna Marino. Stiamo facendo gli ultimi conti, diciamo, le somme finali, e comunque sono risultati del 2011 sicuramente superiori a quelli degli anni precedenti, in linea con l'azione che stiamo facendo. E stiamo anche valutando l'eventuale riduzione del tax gap, che è la parte più importante della nostra attività. C'è una percezione diversa rispetto appunto alle tasse e al fatto di non evaderle? Ma io credo che da un lato la crisi che ha colpito un po' tutti gli italiani, e dall'altro queste azioni che stiamo facendo stiano modificando la cultura dell'evasione. Ho la sensazione, e comincio a avere i primi segnali, che l'evasore non sia più considerato il furbo, ma sia considerato colui che ci danneggia. E quindi credo che il consenso, anche su certe operazioni che abbiamo fatto, dimostri questo cambiamento di cultura, che è la parte più importante, la cosa più importante, se vogliamo raggiungere risultati nel recupero dell'evasione. Ci sono degli esempi che può farci per appunto cambiare questo tax gap? Eliminare il tax gap credo che sia una cosa impossibile, possiamo soltanto ridurlo e riportarlo a fisiologia, come avviene in tutti i paesi occidentali. C'è necessità di cambiare cultura, e lo stiamo facendo. La seconda cosa è utilizzare a fondo gli strumenti che per il recupero dell'evasione ci ha dato il governo. Sono strumenti molto pesanti, molto potenti, ma che dovrebbero incidere fortemente. L'altro aspetto è semplificare il sistema, perché il nostro sistema è talmente complicato, oramai toccato da decine di migliaia di norme da quando esiste, che consente a chi vuole evadere di trovare le scorciatoie e le strade per farlo. Così Attilio Befera, poi ascolteremo anche altri auspici del numero uno del direttore dell'Agenzia delle Entrate, scusatemi. Volete sapere a quanto ammonta la stima della Banca d'Italia sul reddito medio delle famiglie italiane? Allora, il dato sull'aumento è molto diverso tra autonomi e dipendenti, però il reddito medio della famiglia italiana nel 2010 al netto delle imposte e dei contributi sociali è di 2.726 euro al mese. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, durante Telefisco, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha anche fatto un auspicio. Insomma, gli è stato chiesto come vorrebbe che fosse la dichiarazione dei redditi e lui ha detto: mi piacerebbe che fosse di 2 pagine, si figuri a noi che sono 140 pagine. Non so ai commercialisti se farebbe così piacere. Comunque sentiamo Befera. Semplificazione e lotta all'evasione vanno a braccetto, sono la stessa cosa. Se semplifichiamo il sistema rendiamo più difficile l'evasione e più facile scoprirla. Noi su questo spingeremo molto. Abbiamo 2 strumenti, uno è questo decreto, l'altro veicolo che abbiamo è la delega fiscale. Quindi direi che dovremo fare 2 passi, un primo passo di semplificazione che hanno una loro autonomia e un secondo passo che è la revisione del sistema, quindi delega fiscale. A me piacerebbe arrivare, come dicevo qualche tempo fa, ad una dichiarazione redditi delle persone fisiche, ovviamente, fatta da 2 paginette e non dalle 140 pagine che abbiamo oggi. Questo anche attraverso un disboscamento delle detrazioni. E a proposito di commercialisti, è intervenuto oggi durante Telefisco anche il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Claudio Siciliotti, che ha detto: dalla nostra categoria non aspettatevi scioperi, barricate né blocchi stradali, ma non aspettatevi nemmeno che smettiamo di dire la verità e di esprimere la nostra coscienza critica. Lo ha raggiunto sempre la nostra Anna Marino. Oggi bisogna rappresentare con forza il disagio di questa categoria che si vede premuta dagli interessi dello Stato di avviare una riscossione sempre più automatizzata e noi che veniamo gravati di tonnellate di adempimenti senza che ci venga riconosciuto il merito di averli fatti a nostra cura e spesa, addirittura ci tolgono l'euro per le trasmissioni telematiche, ma non abbiamo quel riconoscimento sociale che merita una categoria che svolge un servizio a favore del Paese. E questo credo che vada detto. La collaborazione per salvare questo paese è fondamentale, ma la collaborazione si alimenta della critica costruttiva. Una cosa è la collaborazione, altro è il collaborazionismo. E quindi nessuno si aspetti che questa categoria faccia sconti quando deve dire ciò che pensa, ma si aspettino tutti che saprà fare sempre il proprio dovere quando si tratta di aiutare lo Stato, di spiegare ai nostri clienti quali sono i corretti adempimenti fiscali, come da sempre ha fatto. E come si potrebbe migliorare appunto la riscossione, quindi questo essenziale strumento di colloquio tra Stato e cittadino? Ma io penso che non spetti agli intermediari, ai professionisti e nemmeno all'agenzia stabilire che cosa fare, ma spetti ad entrambi collaborare per come farlo. Quindi gli adempimenti possono essere filtrati assieme per fare quelli che effettivamente rendano utile il servizio e non quelli che lo rendono inutilmente gravoso. Comunque vanno banditi gli estremismi, anche gli attacchi all'Agenzia delle Entrate vanno assolutamente banditi. Gli attacchi che hanno qualcosa di criminale non solo vanno banditi, ma va espressa tutta la nostra solidarietà. Quando parlo di critica verbale, di ragionamenti e di argomenti, non certamente di manifestazioni estreme che sono fuori della legalità e della comprensione di qualsiasi cittadino responsabile. Allora, io dico una cosa, sono scontenti anche i commercialisti. Gli avvocati hanno appena annunciato 2 giorni di sciopero, i benzinai, alcune categorie sì, i camionisti lo sappiamo, i tassisti lo sappiamo, i notai sono arrabbiati, i farmacisti sono arrabbiati, i lavoratori dipendenti che devono andare in pensione sono stra-arrabbiati. Io dico che se si continua così, secondo me va bene, far arrabbiare tutti è l'unico modo per Monti per sopravvivere, deve far arrabbiare però anche i politici. I tagli qua sulla politica ne abbiamo visti pochi. Però se tutti sono arrabbiati, nessuno è arrabbiato alla fine. Allora, le domande più frequenti arrivate oggi a Telefisco. Giovanni Parente, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Sarei esausto, no? Vabbè, sacrifico è una volta all'anno, quindi si va bene un sacrificio. Sì, vabbè. Allora, le domande più frequenti, viste le tensioni anche e le modifiche, sono arrivate, da, come sempre in questi casi, da piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti, no? Esatto, mi ricollego a quello che dicevi poc'anzi sui redditi diffusi dalla Banca d'Italia. Sono proprio gli autonomi che chiedono di più, vogliono sapere di più soprattutto su questo nuovo regime che si chiama il regime dei minimi, che riguarda in realtà piccole imprese, microimprese, appunto esercizi commerciali, professionisti che hanno un limitato giro di ricavi e di fatturato e che quindi da quest'anno possono sfruttare una nuova occasione, che è quella di un prelievo fiscale veramente molto basso, addirittura al 5%, senza contare la riduzione di adempimenti, ecco, la semplificazione che per loro è già una realtà. Ovviamente questa agevolazione viene concessa solo se sono rispettati determinati paletti e va a premiare soprattutto le nuove attività, quindi quelle che sono partite dal 2008 in poi e per questo c'è molta curiosità per sapere se si può entrare o meno, ecco, nuovo regime. L'altro elemento che abbiamo trattato anche con lo stesso Befera a suo tempo e con lo stesso Siciliotti è lo spesometro, cioè i nuovi indicatori dell'Agenzia delle Entrate per capire se hai un reddito che assomiglia alla tua dichiarazione dei redditi oppure no. Esatto, diciamo che questa le domande riguardano in qualche modo il flusso in ingresso dei dati, cioè cosa che comunicare. Esatto, i commercianti e gli esercenti che devono comunicare queste spese di lusso. Si avvicina il primo appuntamento che, salvo ulteriori proroghe, è fissato per il 31 gennaio e quindi i professionisti soprattutto sono alle prese con questi dati che devono decidere di comunicare o verificare su quali comunicare per quanto riguarda le imprese da loro assistite. C'è stata molta confusione nei mesi scorsi, anche perché insomma non è stato facile riprendere tutti i dati del 2010, anche se la soglia prevista era molto alta e ora insomma siamo un po' alla resa dei conti e dentro il 31 va fatto questo invio telematico. Insomma, anche qui qualche chiarimento è arrivato oggi e nei giorni scorsi, e quindi insomma si va verso la scadenza, come ha confermato in parte anche l'agenzia oggi. Le domande potranno essere inviate anche nei prossimi giorni, per concludere? Sul forum attivo all'indirizzo www.sole24ore.com/telefisco potranno continuare ad essere inviate. Le risposte saranno pubblicate poi sia sull'indirizzo internet sia sul Sole 24 Ore e sul Sole 24 Ore del lunedì dei prossimi giorni. Grazie Davide Parente, e adesso le mie scuse invece a Carlo Cottarelli. Voi dite chi è Carlo Cottarelli? No, è un altro dirigente del Fondo Monetario Internazionale che ieri abbiamo bastonato perché l'agenzia ANSA riportava il suo intervento e diceva: l'Italia non ce la può fare da sola, il governo Monti ha fatto una buona manovra sui conti, ma adesso deve fare riforme strutturali. E ci sembrava un pensiero delirante, sia il primo sia il secondo, perché le riforme strutturali in questo governo ci sono. Allora, le mie scuse a Cottarelli, perché si è sbagliata l'agenzia ANSA. Io non sopporto quando tra colleghi ci si copre vicenda. Se sbaglia un giornalista, se sbaglio io chiedo scusa, se sbaglia un altro giornalista chiedo scusa a lui. Ha sbagliato l'agenzia ANSA a tradurre il ragionamento in inglese di Cottarelli, che non ha mai detto l'Italia non ce la può fare da sola, era riferito solo alle misure per gli attacchi contro la speculazione, e non ha mai detto che manchino le riforme strutturali. Quindi chiedo venia, io, colpa dell'ANSA, bravo Cottarelli, e con questo chiudiamo Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.